Uno, nessuno e 100 Milan, un programma condotto da Alessandro Milan e Leonardo Manera, quando ne ha voglia. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui alle 9:07, siamo pronti a tenervi compagnia anche oggi fino alle 11, cari amici, e lui ne avrà voglia? Ne avrà voglia sì o no? Lo scopriremo nel corso della trasmissione. Lui è l'entopede, il nostro Leonardo Manera, insieme alla redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo tutti qui riuniti al Bracco Baldo Show, anche il nostro Alpino. Il nostro Alpino. Conclusione fa tutto da solo. Vabbè, ma è porta a tre le reti del Milan al 21esimo minuto. Migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Vabbè, cos'è successo? La Coppa Italia, un'altra vittoria del grande Milan. Vabbè, va bene, ma tranquillo, tranquillo, Alpino, tranquillo, sereno. Profilo basso, dai. Ci siamo, parliamo di tante tematiche oggi, a cominciare da questa tematica della scuola, la scuola di Roma che classifica di qua i poveri, di là i ricchi, di qua quelli che stanno meglio, di qua quelli che stanno peggio. È davvero, come dire, sbagliato o è una forma di ipocrisia dire che vergogna quando tutti i genitori, prima di scrivere un proprio figlio a scuola, prendono questo tipo di informazioni. Poi bisogna vedere quanto pesano nella scelta dei genitori questo tipo di informazioni. Per alcuni pesano tanto, per alcuni pesano poco. Però da questo partiremo. Ma come abbiamo altre tematiche da affrontare, con noi fino alle 11, state qui, Vai Alpino! Entusiasmi. About the future. Scusate se sbuffo, non sbuffo sulla sigla, ma perché nel frattempo ho letto un messaggio di un ascoltatore che mi scrive: ma la prosesto? Cosa fai? Come ti permetti? Che intanto non sai niente del campionato della prosesto. Siamo sempre primi. Siamo primi. Però ieri abbiamo accumulato la terza sconfitta consecutiva. Amici ascoltatori, allegria! Guarda che adesso giuro che lascio la trasmissione, una cosa che non ho mai fatto. Vengo di lì e ti gonfio come una zampogna, caro Alpino. Eravamo, diciamo, primissimissimissimi. Adesso siamo sempre primi insieme a Legnano, perché dopo tre sconfitte consecutive, come dire, quelli dietro hanno vinto. Però dai, siamo primi, questo è il punto di partenza. Allora, siamo qui 9-10 minuti. Devo dire che questa tematica della scuola, istituto comprensivo di Via Trionfale, su cui si scandalizzano tutti quanti, è una vicenda da cui voglio partire. Allora, i fatti. Qualcuno, il quotidiano Leggo, ha scovato un documento che peraltro pare adesso risalente al 2012, sul sito della scuola, nel senso che ogni scuola, indicazioni del ministero, deve autopresentarsi. In questa autopresentazione l'Istituto Trionfale, che ha vari plessi scolastici a Roma, ha commesso evidentemente qualche tipo di errore e che ha suscitato polemica. Qual è l'errore? Beh, si legge nella presentazione di questa scuola questo: l'ampiezza del territorio rende ragione della disomogeneità della tipologia dell'utenza che appartiene a fasce socioculturali assai diversificate. La sedia di Via Trionfale e il plesso di Via Taverna accolgono alcuni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di Via Sarotti accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta tra gli iscritti il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana. Il plesso di via Vallombrosa accoglie invece prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia, assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie, colf, badanti, autisti e simili. Apriti cielo, la scuola che divide per ceto sociale nella propria presentazione. Ora, devo dire che trovare qualche commento che non vada a stroncare questa tipologia di documento è stato difficile, ma devo dire che il Messaggero parla un po' di polemiche forse pretestuose e Filippo Facci su Libero è l'unico che si scaglia a dire ma insomma. Ma ci si indigna per questo documento, ma si chiama realtà, scrive Filippo Facci. Da una parte, in linea di massima, e soprattutto in una scuola pubblica, sarà anche vero che strombazzare troppo, qui i ricchi, qui i poveri, qui i marocchini, qui i figli delle parioline tinte che mandano i figli a giocare a tennis all'aliene, è una cosa che non va bene. Dall'altra c'è qualcosa che non va anche nel fatto che non si possa scrivere tutto ciò che invece è ordinario discutere informalmente: chi frequenta una scuola, come si chiama la classe sociale che ci corrisponde o che vorremmo che ci corrispondesse, se ci sono dei bambini stranieri che potrebbero zavorrare il programma perché non parlano ancora bene l'italiano. Queste cose che dice Filippo Facci sono sulla bocca di tutti i genitori quando devono scegliere una scuola. Allora, voi che ne pensate? 800240024, davvero trovate inopportuna sicuramente, forse sì, in un documento, ma è scandalosa questa presentazione della scuola? Voglio chiederlo al poeta e scrittore e anche commentatore spesso sui giornali, Davide Rondoni. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. È scandalizzato lei, Rondoni, da questa divisione? Ma no, guardi, io credo che sia una delle tante scenette a cui dovremmo abituarci a causa di questo, io lo chiamo questo teatro delle identità, no? E sa che la parola identità è diventata molto corrente, sì, per la filosofia gender, per i politici, cioè, è chiaro che se ogni volta che si qualifica una persona si presume che questa sia la sua identità, come se lo si bloccasse in quella cosa lì, tutto diventa scandaloso, rigido, difficile. Cioè, ogni volta, mi ricordo il mio professore, che è stato un grande italianista, Ezio Raimondi, si vantava di essere figlio di una colf, si direbbe oggi. Quindi vuol dire è che questo teatrino dell'identità, cioè noi stiamo abituando purtroppo ad identificarci con gli aggettivi, omosessuale, eterosessuale, classe media, come se l'aggettivo fosse l'identità della persona. Sì. Poi gli aggettivi possono essere usati naturalmente con cautela e secondo i modi migliori, però l'aggettivo non identifica del tutto una persona, se no non possiamo più dire niente. Dovrebbe scrivere la scoglia, sono tutti figli di Dio? Vabbè, ok, giusto, se l'unica cosa da dire sarebbe questa, ma anche quello forse creerebbe qualche scandalo. Ma io infatti dico, cioè forse però è un po' inopportuno fare questa distinzione per ceti sociali. Tra l'altro appunto guardi, il ceto medio ormai, ma chi lo conosce più? Esiste ancora. Infatti sono anche definizioni che dicono poco, perché appunto il figlio di una colfa può essere un segno dell'italianismo come Raimondi, quindi è chiaro che, ma io insisto, è una delle tante scenette, se ne vedono tante, su questa, è diventata cronaca generale, ma scenette che ci dicono questa difficoltà. Guarda, io quest'anno ho girato a parlare dell'infinito di Leopardi in 305, perché l'infinito ci dice che l'unica identità dell'uomo è l'infinito, poi gli altri sono tutti aggettivi, discutibili, da usare con cautela ovviamente, ma, però sono aggettivi, non sono identificativi. Nessuno è solamente il figlio di una colfa, o solamente omosessuale, o solamente eterosessuale, o solamente bianco, o solamente nero. La persona è un'altra cosa, identificata da altro. In questo è inopportuno, insomma, che una scuola si presenti appunto mettendo già delle classificazioni. Però siccome il ministero ha dato indicazione delle scuole, vero, in qualche modo di presentarsi, è uno cosa deve dire. Cioè, sono qualsiasi modo di presenti. Ma io per esempio la capirei così, forse se uno mette delle statistiche come presentazione, non so, qui da questa scuola c'è un abbandono scolastico di tot per cento, da questa scuola molti vanno all'università, ma anche a dire, non mi scandalizzerebbe a dire, qui c'è una percentuale di figli di stranieri che è di questa percentuale, cioè queste sono statistiche fredde che uno poi assume come vuole, ecco, non... Sì, certo. Questo, come lei suggerisce, tra virgolette, è un modo più forse educato e corretto di dire la stessa verità. Il problema è un altro. Chi ha scritto questa pagina qui ha detto la verità? Ha voluto vendere fumo? Ha detto cose offensive? No, a me non sembra che abbia detto cose offensive. è che siamo un po' tutti isterici ormai per questo problema. Sta di fatto che infatti l'hanno cancellata, cioè l'hanno tolta. Leopardi, scusi se uso la poesia, sì? Leopardi, il suo pane. Nel 1830 grida alla luna, e io che sono? Cioè, la grande domanda della modernità rimasta in evasa è questo: quando io dico io, cos'è che mi identifica? La classe sociale? Il sesso che faccio? L'appartenenza politica, il colore della pelle, cosa che identifica l'io? Leopardi dava una risposta su questo? Certo, l'uomo è l'unico essere nell'universo che si fa la domanda del senso dell'universo, questo identifica l'uomo, nient'altro, questo senso dell'infinito e del senso, solo questo identifica l'uomo, tutti gli aggettivi, tutti, sono aggettivi discutibili, da usare con cautela, con rispetto, ma sono aggettivi, non sono identità. Sì, sì. Certo. È chiaro che se ogni cosa diventa identità ci si offende sempre. Perché poi sai, il potere è molto bravo a premiare alcune identità invece di altre, no? Sì. Poi ci sono alcune identità di moda e altre meno. Ma allora cosa... una volta appunto il mio professore si vantava di essere figlio di una colf, adesso invece dire a uno che è figlio di una colf sembra dispregiativo. Perché? Perché sono identità che cambiano di moda, ma non è l'identità di una persona essere quello, e questo secondo me è il problema che oggi, e insisto, il caso di questa scuola è esemplare, insisto, sono stati, diciamo così, non abili nel farlo, non lo volevano fare, però è di questa isteria che ci ha preso un po' tutti, bisogna salvarsi da questa isteria dell'identità. Sì, non è la prima volta. Io ricordo che qualche anno fa un altro istituto di Roma, lì forse hanno esagerato, si vantavano, quello ha veramente reso tutto il discorso molto, molto fastidioso, si vantavano di non avere disabili, cioè dicevano non ci sono disabili, come se fossero la zavorra, no? La zavorra, quello sì, fu odioso. Morto un ragazzo che conoscevo, poeta che scriveva poesie, questo ragazzo di Firenze che è morto cadendo in una buca. Certo, è una vicenda, lo conosceva. Sì, Nicolò ha dato le sue poesie e devo dire, per me lui è un poeta, è un ragazzo che amava l'infinito, non innanzitutto un disabile. Cioè anche questo, cioè noi, per cui appunto questa roba dell'identità che ci sta un po' ammassando tutti. Sì, del categorizzare, e anche del categorizzare. Certo, tutto diventa categoria, e nelle categorie si sta stretti, no? Ovviamente il rischio di offendere riducendo l'altro a una categoria. L'altro è l'io e l'infinito, questo Leopardi ce l'ha detto in maniera chiara. L'unica cosa che qualifica l'io, che identifica l'io, è l'infinito, il resto sono aggettivi, e di tutti gli aggettivi si può discutere con pacatezza, con calma, senza che nessuno si senta soffocare dentro. Sì, per questo dire a uno sei di una famiglia di ceto medio non è mica un'offesa, dire a uno che sei di una famiglia popolare non è un'offesa. Se questo lo identifica del tutto diventa un'offesa, certo, diventa un'offesa per l'io, non è solo quello, però gli aggettivi si possono usare. Sì, poi c'è da dire che forse la presentazione è stata a dire qua ci sono quelli del ceto medio, qua, come dire, genitori regolatevi e sappiate certo. E sappiate se volete anche voi categorizzare dove mettere i figli, no? Però questo è un giornalista intelligente, questo è uno spettacolo che oggi vediamo in milioni di posti. Ma sì, infatti. Questo è esploso come fenomeno, per cui non si possono dire certe cose, o come diceva lei giustamente prima, in privato si dicono, in pubblico diventano offensive. Ma perché? Questa si chiama grande ipocrisia. Su questo sì, ora, un po' di ipocrisia. La scuola in questo senso dovrebbe essere proprio il luogo più libero da questi ricatti del pensiero dominante, delle mode comuni. Evidentemente non... c'è un po' un problema in questo senso qui, cioè è a scuola che dovrebbe insegnare ai ragazzi che l'unica identità è l'infinito della persona, che gli altri sono aggettivi, se anche lì invece si mettono ad aggettivare, a identificare le persone con il colore della pelle, il senso che fanno, eccetera, attenzione, questa identità le persone scoppiano. Allora, io la ringrazio, Davide Rondoni. Non le chiedo niente. No, in realtà la curiosità ce l'ho, ma c'è tutta una polemica. No, a me non interessa niente, ma c'è stata tutta una polemica recente su Rondoni e Salvini, perché Rondoni aveva detto in qualche intervista che era, non so se posso dire amico, poi qualsiasi parola uno sbaglia. Amico? No, è molto semplice. Mi conosce, mi stima. Vi siete sentiti, vabbè. Non è che siete sentiti, mi ha chiesto di aprire la loro convention a Bologna. Sì. Io ho detto, se posso dire quello che voglio, vengo. No. E ho parlato di poesia, è stato bello. Penso che questo sia un segno. E quindi le devo chiedere cosa ne pensa di tutta questa polemica, il bar che chiude al comizio di Salvini, e Salvini che deve fare il comizio fuori. Ma secondo me, guarda, gli italiani amano il teatro. E la politica si nutre anche di teatro, quindi da una parte all'altra ci sono teatranti, colpi di teatro. Devo dire che Salvini questo... Come uomo di teatro non è male, perché quindi anche lui sta al gioco, ecco. No, lo dico per fortuna, ma guardi, quando la politica è teatrale vuol dire che ci sono grandi questioni in gioco. Mi preoccupa quando c'è il silenzio e la penombra dei corridoi e i gessati grigi, quello mi fa più paura. Mm. Quando c'è teatro lì stanno agitando grandi questioni su cui è giusto discutere, dividersi democraticamente, però il teatro democratico è bello. Sì. Il silenzio dei corridoi felpati mi preoccupa. Non le piace. Grazie Davide Rondoni, grazie ovviamente anche per le parole sull'infinito, che insomma è sempre una di quelle poesie, quando di recente, proprio qualche giorno fa, l'ha imparata a memoria anche mia figlia Angelica, insomma me la recitava, beh, qualcosa di... è qualcosa di bello che dà ampio respiro. Allora, le 9:22 minuti, ora dobbiamo e voglio salutare con piacere la prossima ospite per raccontare questa storia che forse qualcuno ha letto nella purtroppo parte finale della sua vicenda, nell'epilogo, la storia di Giovanni Custodero. Giovanni Custodero era un calciatore, un ragazzo intanto, con questo sorriso che davvero in questi giorni irrompeva e prorompeva dai giornali, che a causa di un sarcoma osseo che è degenerato negli anni ha fatto questa scelta, salutando tutti gli amici su Facebook, salutando e ringraziando e scrivendo spero di essere stato di supporto a qualcuno, ha fatto questa scelta che è consentita dalla legge italiana di ottenere la sedazione profonda per come dire lenire le sofferenze, lenire nel dolore, e poi è morto. Io voglio salutare e la ringrazio molto la sorella Mariana che è con noi. Buongiorno Mariana. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, sui giornali c'era questa frase, potendo scegliere avrebbe scelto l'eutanasia, che è una frase ovviamente che crea subito e genera un dibattito, no? Come lei può immaginare. Assolutamente sì, era anche quello lo scopo fondamentalmente. Era una volontà proprio espressa di Giovanni. Sì, esatto. Nel momento in cui ci si trova a vivere una condizione che sentivo prima, si parlava di democrazia, di potere, ma in realtà il potere e la democrazia sì, ma fino ad un certo punto, fino al punto in cui non ti trovi a vivere una situazione, fino a che non sei costretto in un letto, non sei costretto a soffrire forse più di quello che una persona umana potrebbe sopportare, perché se si arriva a dire io voglio morire, perché ad un certo punto si è davvero stanchi di una sofferenza inutile, perché comunque si sapeva quale sarebbe stata la fine di mio fratello, no? Cioè non è stato un incidente o un tumore rapido, è stata una lunga agonia, soprattutto nell'ultimo mese. Quindi nel momento in cui ti dicono non ci sono più terapie, dopo averle provate tutte per 4 anni, perché sono stati 4 anni intensi, molto intensi, ti dicono non c'è più niente da fare, basta, devi aspettare. Aspettare cosa? Aspettare cosa con tutta quella sofferenza? È là che pongo delle domande, no? È là che dico, sì, potere, parliamone democraticamente, ma democraticamente fino a che non ti capita di viverla. Guardi, io ieri ho proprio letto e ho fatto anche una polemica nei confronti di Silvana De Mari, che è un medico che scrive sulla Verità e che parlando e scrivendo del caso recente di Fabiano, DJ Fabo e di Cappato, ce ne siamo occupati, la sua posizione è una posizione contro l'eutanasia, e fin qui è una, come ho detto ieri, una posizione, come dire, rispettabile, la posizione di Silvana De Mari. Ma a un certo punto ha scritto: se mi trovassi nella stessa situazione di DJ Fabo, continuerei ad amare la vita e a voler vivere. Ma nessuno mette in dubbio che anche mio fratello diceva: io amo la vita, io continuerò sempre. Ed è il messaggio che lui ha lanciato: la vita è meravigliosa e va vissuta. Lui fino all'ultimo momento, fino alla mattina della sedazione, ha continuato a dire a tutti: amate la vita. A me ha detto anche: continuerò a vivere attraverso i tuoi occhi, fai per me quello che, cioè vivi per me anche, no? Che è meraviglioso. Però da dire amate la vita a dire continuo a soffrire in quel modo atroce, perché ripeto, se non la vivi non puoi comprendere. Quindi Rispetto per la dottoressa. Certo, era questa la limiti, esatto. Era questa la mia critica di dire ieri, esatto, che posizione di arroganza si può non capire di non mettersi nei panni empaticamente della persona e dire perché, dalla propria cattedra io farei così, io farei così. Però c'è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, perché molti hanno detto sì, parliamo di questa sedazione profonda che permette di evitare sofferenze. Intanto è relativo, perché comunque ci sono dei meccanismi, adesso perdonami, ma io non sono un medico, sì, quindi non ho... Certo, magari neanche posso sbagliare neanche qualche io. Lo dici dall'esperienza vissuta. Esatto. E ti dico, comunque... continuava anche sotto sedazione mio fratello, quindi per 5 giorni ad essere agonizzante, cioè a lamentarsi in continuazione, quindi immagina questo suono straziante della voce, e quindi sicuramente lui non era cosciente, quindi magari una sofferenza in meno per lui, ma possiamo renderci conto anche della sofferenza di chi lo ama e gli sta accanto, di una madre che vede questo figlio lamentarsi e star male e non può far nulla, di una sorella, una fidanzata, di persone che stanno lì e non hanno la possibilità di fare nulla. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa stiamo parlando fondamentalmente? Diciamo che le ovviamente, ha detto, è morto con dignità. Con dignità sarebbe morto nel momento in cui non avrebbe dovuto sopportare quello che ha sopportato. Quella è la dignità. Dire ok, sono consapevole che non ho più coscienza del mio corpo, ed è giusto che con quella dignità che ho avuto per una vita, io muoia. E questa è la lotta, diciamo, per l'eutanasia. Però c'è già la questione della sedazione profonda, è una scelta che molte persone non sanno, ma che è possibile, è perfettamente legale. Per dire, giusto per sgomberare da questioni etiche, anche il Vaticano l'accetta come una delle scelte finali da parte in maniera consapevole da parte della persona che sta male. Esatto, questo è legale. Io mi domando ancora fondamentalmente la differenza, cioè nel senso, perché è legale una sedazione che comunque ti permette di stare in uno stato assolutamente diciamo vegetativo in qualche modo, perché alla fine non sei nutrito, non mangi, non puoi spostarti, non puoi alzarti, non puoi fare nulla, quindi rimani lì nel letto con un cuore che batte, perché batte, senza, cioè, sì, con i parenti che sono vicinetti e piangono per te. Certo. Io mi pongo questa domanda: perché questo è accettabile? No, ma è una domanda, voglio dire, che non avrà certo una risposta da parte mia, e credo che no, una domanda che chiaro che è una domanda che Mariana giustamente è una domanda alla quale poi ognuno dà la propria risposta, o forse una risposta valida per tutti non c'è. C'è solo da poterla ascoltare come domanda. Mariana, noi ti ringraziamo, insomma, un grande abbraccio ovviamente alla famiglia. Ci tengo solo a dire l'ultima cosa a tutti: il messaggio di mio fratello è stato importantissimo, lui ha combattuto in questi 4 anni per questo, cioè per dare a ciascuno, lui mandava messaggi anche singoli per ricordare a ciascuno il bello della vita, quindi per chi veramente ascolta, non lasciate cadere questo messaggio tra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, portatelo avanti. Cioè io adesso sono fuori in giardino a godermi il sole e l'aria fresca a parlare con voi, a pensare a tutto quello che lui avrebbe fatto stamattina. Quindi amate la vita, punto. Grazie. Grazie Mariana Custodeno, un grande abbraccio, sorella di Giovanni, che appunto è morto, insomma, qualche giorno fa, e ha voluto lanciare questo messaggio. Andiamo un attimo in pubblicità, grazie. Uno, nessuno, 100 Milan. E Milan, la cosa paradossale è che chi critica l'iniziativa della scuola è proprio chi manda i figli alle scuole private o alle scuole d'élite. Milan, ma certo, c'è ragione Facci, è la descrizione del tipo di scuola e di chi la frequenta. Alessà, buongiorno. Ai tempi miei i più bravi si mettevano ai primi banchi e i somari agli ultimi, e non solo, ma il professore guardava solamente i primi perché erano figli dei ricchi. Siete sempre state questa divisione, Alessà. Ciao, buona giornata. Allora, 9 e 36 minuti, siamo qui. Come vedete, il tema della scuola di Roma ha catalizzato un po' le attenzioni dei nostri ascoltatori, anche se il messaggio di Mariana Custodero, davvero io vorrei che tutti lo possano tenere, mantenere, custodire nel cuore, non per un giorno ma a lungo. Amate la vita, come diceva suo fratello. Poi mi giro qua in uno studio deserto, vuoto, freddo. Senza... Ma io ci sono comunque, io ci sono, sono altrove, ma ci sono. Oh, attenzione signori, Leonardo Manera! Qui ci vogliono gli applausi, caro Peter, quelli che piacciono molto a Leonardo. Oppure il suono della borsa, se vuoi. Leonardo Manera! Dove cavolo sei, Leonardo? Sono a casa mia, perché ieri sera ho fatto un po' tardi, e quindi stamattina, per non rischiare di arrivare in ritardo... È una buona scusa per tutti, cari ascoltatori. È una buona scusa per tutti. Anch'io ieri, allora, devo dire questa cosa. Anch'io ieri ho fatto tardi, mi permetti di dire questa cosa. Sono stato a Teatro, certo, Manzoni a vedere Belle Ripiene con tra le altre quattro attrici, Tosca d'Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo, ma soprattutto la nostra amica Rossella Brescia, bravissime e bravissima Rossella. È una commedia molto piacevole, però sono qua. Io ieri sera avevo un impegno un po'. Baci. Questi sono i baci di Rossella Brescia, veri, no, certificati. Dicevo che tu ieri sera eri lì a gozzovigliare, a divertirti, insomma, a fare cose. Sì. Io invece ero a fare delle cose, diciamo, di lavoro, a fare delle prove, quindi non è paragonabile la situazione. Ecco. Non è paragonabile. Ma assolutamente no, è come dire, io vado a divertirmi, poi la mattina dopo non vado a lavorare. Io invece ero in qualche modo a lavorare. Essere presente. Sì. Eri a lavorare, però sei venuto, sei pagato qui. A proposito, eri a lavorare a preparare lo spettacolo dell'oratorio di Castel San Giovanni. Non hai provato il clown Neronello ieri? Sì, l'ho provato. E allora, è tutto pronto per Don Paolo? Ti aspetta a Castel San Giovanni? No, perché va ancora sistemato, non è ancora al meglio. Ma i bambini si accontentano di quello che... Non sono in grado di proporlo già domenica, ci vorrà un tempo di decantazione. Ecco. Vabbè, ma dai, insomma, poi hai tanti personaggi che poi... Ma perché dobbiamo parlare del mio spettacolo di domenica che non interessa veramente a nessuno? A Castel San Giovanni, ma come no? Sì. Come no? Va bene, allora non sei qui, Leonardo, ma sei pagato lo stesso per questo? Il direttore del personale viene qui e ti ritira dalla busta che è sempre a disposizione qua fuori dallo studio un po' di denari per l'azienda. Allora, io per contratto potrei rimanere a casa 2 giorni alla settimana. Sabato e domenica. Sabato e domenica. Io l'ho interpretato come giorni infrasettimanali. Beh, veramente, questa è una decisione tua, anch'io sto a casa sabato e domenica. Ecco, e quindi già sono fin troppo ligio, perché invece normalmente mi presento anche quei 2 giorni in cui potrei rimanere a casa. Vabbè, dai, tu hai un'idea sulla scuola? Sentiamo gli ascoltatori. Sì, ho un'idea sulla scuola. L'idea che ho io è che sarà pure come dite voi, che queste cose vengono dette normalmente dai genitori, eccetera. Però dirlo da parte di una scuola vuol dire istituzionalizzare la questione e dire che per quelli più sfortunati non c'è nessuna possibilità di miglioramento nella vita. Ma questa la trovo una cosa. Ma questo, infatti, terribile. È il motivo per cui poi hanno tolto. È come dire, voi che siete nati così, siete destinati a rimanere così per tutta la vita. Io la trovo una cosa terribile, insomma. Detto questo, insomma, tu sei d'accordo sul fatto che comunque i genitori fanno questo tipo di discorsi in privato, ovviamente, e fanno anche le scelte in conseguenza di questo tipo di discorsi? Io adesso devo scegliere in che scuola media andrà mio figlio, ma non ho mai pensato sinceramente di informarmi su chi c'è come alunni all'interno. Ho pensato di capire com'è la scuola, ma poi sapere chi la frequenta Ma veramente mi sembra una cosa ininfluente. Mi interessa di più sapere come sono gli insegnanti, se sono bravi, se ci sono delle prospettive, dei progetti, ma sapere che c'è dentro la figlia di una colf piuttosto che la figlia del chirurgo proprio non me ne frega niente. Su questo sono assolutamente d'accordo con te. Le domande che si devono fare sono: quant'è la, come dire, la fedeltà dei professori, per esempio, se i professori cambiano o non cambiano, eccetera. Informarsi questo sulla qualità degli insegnanti, perché è innegabile, insomma, sono poi loro che fanno la differenza. Queste informazioni però non vengono, come dire, messe come presentazioni dalle scuole. Sì, però non è che gli open day dove uno può farsi un'idea. Sì, però. Ma uno deve acquisire queste informazioni oppure da chi c'è già passato, da chi conosce, da chi no, da chi ha avuto già figli lì. Non è che sulla presentazione della scuola c'è scritto: qui abbiamo un insegnante di matematica che è un gran fannullone. L'insegnante di italiano è quasi in pensione e non ha voglia di lavorare. No, non ci sono. Sì, questi. Però tu senti comunque parlare i professori agli open day, magari una mezza idea te la puoi fare. Sì. Ecco. Comunque, dal Manera barricato, potremmo mandare uno a suonare al citofono, vedere se rispondi. Sentiamo gli ascoltatori intanto. C'è Giuseppe da Milano, buongiorno. Buongiorno Milan, grazie. Eccoci. Per la disponibilità. Allora, io volevo un attimo ribaltare questa vicenda. Sì. Parlo direttamente della scuola di mio figlio, parliamo di una scuola elementare e media in centro a Milano, dove la qualità degli insegnanti in maniera molto liquida e trasversale è pessima, non cattiva, pessima. E questa informazione lei non la troverà sul sito della scuola. No, mi dia ancora qualche secondo, la prego. Sì. Dopodiché il discorso che secondo me andrebbe affiancato a quello che ha suscitato il vespaio della scuola romana è: ma perché non mettiamo, la finiamo con questo buonismo e ci rendiamo conto che o rifondiamo, va riformato in maniera veramente profonda questo sistema scolastico, che è uno dei mali del nostro paese, o noi continueremo ancora a parlare di quella scuola che cerca di fare selezione, di quell'altra che è più restrittiva. Ma perché non parliamo degli insegnanti che il giorno dopo che diventano di ruolo lasciano la scuola dove sono stati assegnati? Perché non parliamo delle scuole che il primo giorno di scuola hanno ancora le cattedre vacanti, sapendolo l'anno precedente? Caro Giuseppe, è una problematica che c'è tutti gli anni. Sì, non è la problematica portata alla luce dalla vicenda di ieri, è una problematica che c'è, questa la sappiamo, è inequivocabilmente è una delle problematiche della scuola pubblica. Però insomma, per rimanere sul tema, qui la questione posta ieri era un po' diversa, ma lei giustamente dice ce ne sono altre di problematiche più ampie della scuola. Andrea Torino, Giancarlo. Pronto, buongiorno, sì. Signor dottor Milan. Eccoci. Io volevo commentare il fatto che è successo in quella scuola romana, ma io sinceramente, come si dice, trovo che abbiamo enfatizzato troppo questa vicenda, perché non ci trovo nulla appunto di scandaloso, cioè subito si grida alla discriminazione, ma secondo me purtroppo è la realtà. Nel professionale ci va una determinata categoria, al liceo ce ne va un'altra, ma non ci trovo nulla appunto di scandaloso, anche perché nessuno ti impedisce di iscriverti in una scuola o in un'altra. Sì, come diceva Leonardo, però metterlo così nero su bianco è come dire, sappi che lì trovi le figlie delle colf, lì le figlie dell'alta borghesia, ma chi se ne frega, insomma. Ma chi se ne frega? Io trovo nel senso cosa, chi se ne frega, pecca, quindi chi se ne frega, quindi non dirlo, sì, ecco, non scriverlo. Dirlo. Ma io dico che si pecca troppo oggi di appunto vittimismo, una parola di troppo sei razzista, sei come si dice, c'è antisemita, sei tu. Oggi non si può dire più nulla. Niente. Perché o si sbaglia a parlare o si colpisce la sensibilità di persone eccessivamente sensibili. Questa è la motivazione per cui Manera inizierà ad essere barricato, insomma, anche un po' questa è una giustificazione, Leonardo, no? Tu sei barricato, no, per questo tra un po' non parlerai neanche certo, più per sarai non incontrare persone, sì, sì. Non voglio incontrare persone, quindi sono barricato in casa. Ma non è questione di essere troppo attenti, il problema è che magari fino a qualche anno fa non si parlava così, c'era più educazione, semplicemente si offendeva di meno, ecco. Sì. tu sei sempre stato un gran maleducato e si sa, insomma, questo è vero, è uno che offende chiunque, insomma. Ma quindi tu adesso, cioè, tipo tra poco finisce la prima ora di Uno Nessuno 100.000, scendi al bar Jimmy a prendere un caffè? Tanto... Eh no, perché sono ancora in pigiama. Sei ancora in pigiama alle 9. il maggiordomo è già arrivato. Sono in pigiama e una vestaglia, anche un po' sgualcita, sdrucita, sì. Perché manca il cane che ti porta il giornale e il maggiordomo. Il maggiordomo a che ora arriva? Non ho maggiordomo, ma posso essere in pigiama una volta che rimango a casa? Ma guarda che veramente, ma no, cioè, ma bisogna anche indagare su come sono vestito quando sono a casa mia. Per la sono verità io non ho indagato, l'hai detto tu. Ti ho chiesto semplicemente, scendi al bar Jimmy pensando che uno alle 9.45, uno della tua età, un lavoratore della tua età alle 9.45 sia già attivo e vestito, e tu hai detto sono in pigiama, cosa vuoi da me? Cioè, come al solito, sono in pigiama... E anche una vestaglia multicolore addosso. Multicolore. Blu, beige. Ma perché non ci mandi una foto che la mettiamo sul sito Facebook? Dai, caro Lorenzo Nespoli, sta per arrivare una foto sul sito, la mettiamo sul sito Facebook o su Twitter, sui nostri social, di Leonardo Manera in vestaglia arlecchino, cioè multicolore, non lo so. Adesso io mi chiedo perché questa cosa dovrebbe interessare. Questa vestaglia è un ricordo, tra l'altro. Vabbè, ricordo di chi? Di un ex fidanzato. Di una mia fidanzata. Ma è la numero 42 o... No, è una di cui ho già parlato. Vabbè. Una delle di quelle. Poi non sono 40, sono 3, 4. Sono 3. Va bene, quindi facciamo la foto e mi suggeriscono la mettiamo sul tuo sito leonardomanera.it, quello coming soon. È in costruzione. In costruzione, va bene. Andiamo al traffico. Abbandona le certezze e respira il cambiamento. Immagina nuovi mondi a partire dalle tue radici. Domina il presente e vivi il futuro, cominciando dalle tue unghie. Con il Tronchesino Calloni, mai più unghie fuori posto. Unghie sempre tagliate bene col Tronchesino Calloni. Tronchesino Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, si capisce lontano un chilometro che sei cotto di Rossella Brescia. Hai detto bravissima Rossella Brescia, intendevi dire bellissima. Quello è scontato. Ormai lo sappiamo. Quello è scontato, voglio dire che sia bellissima Rossella Brescia, mi hai detto una banalità incredibile. Invece voglio rimarcare che oltre a essere bellissima è bravissima a recitare in questa commedia al Teatro Manzoni. Andate a vederla, molto bella. Ma io belle sono abbastanza d'accordo, sono d'accordo con l'ascoltatore, emergeva un certo interesse dalle tue parole. Voglio dire, ma Rossella Brescia è sposata con Luciano Cannito, sono cari amici, ma sì. Com'è? Forse questo è un deterrente. No. Cioè, sarebbe la prima volta. Sono sposato e... Smettila, stupido. Ciao. Ma abbraccio lui e lei insieme. Oh, sì. Ma che cavolo. Ma non si può essere amici di una persona bellissima. Ma certo. Insomma, vabbè. Lo dice anche in modo ironico. Abbraccio anche lui, il mio amico. Smettila. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Luciano Cannito, va l'amico. Luciano Cannito. Guardati la testa, Luciano. Guardati la testa. Smettila. Finiscila. Ah, dai. Dai. Vai. Allora, una delle notizie principali di questi giorni è l'inquinamento. Che a Roma, per esempio, ha determinato il blocco di tutte le auto diesel, anche gli Euro 6, che magari qualcuno, pensando di inquinare meno, ha appena comprato. Anch'io tra poco dovrò cambiare auto e non so cosa prendere. Le ibride, a quanto pare, se si fanno molti chilometri in autostrada, non sono l'ideale. Le diesel sono soggette appunto ai blocchi del traffico. Quella benzina consumano di più, a quanto pare. Forse l'ideale è munirsi di una macchina tipo quella degli antenati da spingere con i piedi, ma tutto dipende dal clima, dal freddo invernale che non c'è più, dal vento che non c'è e che fa proliferare le famigerate polveri sottili. Il tempo, il clima. E quindi il tempo potrebbe essere l'ultimo oggetto di qualche futura campagna elettorale. Basta finalmente fare promesse che riguardano l'economia, le tasse, le grandi opere. lì ci sono sempre problemi, ci si mette di mezzo l'Europa, i poteri forti, il mercato, l'IVA, le clausole di salvaguardia, tutti i problemi che impediscono la realizzazione completa dei programmi. Allora tanto vale puntare su altro. Io, se fossi un leader di partito per le prossime elezioni, punterei sul tempo. Bel sole ad ogni ponte, prometterei. Mal tempo sì, ma moderato, solo in autunno e in inverno, con la giusta dose di acqua che cade dal cielo per smaltire l'inquinamento. Estate con un bel sole, non troppa umidità, vacanze di Natale innevate al punto giusto per favorire splendide discese sulle piste da sci. In fondo abbiamo capito che nessuna promessa elettorale è veramente realizzabile, anche se tutti anno dopo anno tendiamo a crederci. Allora proviamo col tempo. Bello al mare, neve in montagna, mai troppo freddo, mai troppo caldo, ma cieli sereni e puliti. La nuova vera frontiera delle promesse elettorali è il clima. È il clima. Partiti, leader di partiti, promettete clima mite tutto l'anno, e noi che negli anni abbiamo creduto a tutto crederemo anche a quello, crederemo che con una politica forte e decisa si potrà avere un clima migliore per tutti, senza inquinamento, dal pensionato al giovane senza lavoro al ricastro con lo yacht. Perché in fondo il clima è trasversale, è democratico, una bella giornata di sole se la godono tutti, sullo yacht come sulla spiaggia di Fregene. E se poi le promesse elettorali non si potessero mantenere, se il maltempo o l'inquinamento continuassero a imperversare sul nostro italico stivale, beh, tutti converranno che la mancata realizzazione dei programmi è causa di forza maggiore o al limite delle buone vecchie scie chimiche, e che comunque le promesse erano state fatte in buona fede. In fondo, se bisogna creare un clima di illusioni, tanto vale partire creando illusioni sul clima. E se poi il cielo dovesse annuvolarsi e dovesse piovere sempre per tutto l'anno, si potrà sempre dire piove, piove, governo precedente, ladro. Mi sembra giusto. Vuoi allora salutare anche tu Rossella, che magari ci ascolta? Rossella, l'ho avvisata, ho detto Rossella. Guarda che caro Leonardo Manera sta millantando delle cose brutte e non vere, no, e non vere. Io non ho millantato, ho solo detto che dalle tue parole traspariva un interesse per Rossella Brescia, ecco. Ma cosa vuol dire interesse? No. Ti ho detto che sono andato a vedere Belle Ripiene, che è molto bello, e andate a vederlo, questo sì, è il mio interesse. Ti faccio notare quello che tu hai detto. Che cosa ho detto? Tu hai detto che è bravissima. No, tu hai detto bravissime. E bravissima. E bravissima. Vabbè, come perché dire, la conosco, perché è un'amica. Altre. Ma no, perché è un'amica. Era come dire brave le altre, e l'ho detto così per educazione. Ma bravissima. E in quel bravissima c'era, a prescindere dalla tua interpretazione sul palco, questo era... Ma guarda, che sei veramente... No, no, no. In quel bravissima c'era tutto. Dai, rimedia e saluta Rossella Brescia e anche Luciano Candito. Ma più che Candito. Salutare lei, saluto Luciano. Luciano. Ciao Luciano, benvenuto nel club. No, ma quale club? Ma quale club? Cosa stai dicendo? Quale club? Smettila. Anch'io sono stato nel club, Luciano. Vieni nel club con me. Ma quale club? Io ospito a casa mia. Vieni, andiamo a bere un aperitivo al Bar Jimmy insieme. Barrichiamoci insieme. Vabbè, è inutile. È la classica cosa che più smentisci e più viene. La smentisco categoricamente. Va bene. Ma scusa, se l'ha detto l'ascoltatore. Vabbè, comunque. Ma che sì, capirai l'ascoltatore. Cosa vuoi che ne sappia? Simone dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, Simone. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Niente, guardi, io sono un insegnante. Quando leggo notizie come questa, perché non è la prima volta, anche l'anno scorso c'era stato un articolo che parlava di una cosa simile, mi fa sempre un po' ridere per un motivo molto, molto semplice, lo trovo un po' una trovata giornalistica. Le scuole, quando compilano quello che si chiama rapporto di autovalutazione, sono costretti, ma lo fa un software in modo automatico, ad indicare delle caratteristiche, diciamo così, anagrafiche della scuola, in cui compaiono anche le caratteristiche dei suoi iscritti. È un automatismo di tipo informatico che poi viene inserito in questo sito che si chiama Scuola in Chiaro, dove c'è la carta d'identità di tutte le scuole d'Italia. Questa scuola romana ha avuto poi la sfiga di avere più sedi. La sfiga. La sfiga, nel senso giornalisticamente parlando. Sì. di mostrare un confronto tra i vari plessi delle sedi, sì, ma sì. Nella carta d'identità di tutte le scuole d'Italia c'è scritto qual è la tipologia. Va di bene, ma avessero scritto, che ne so, dal plesso tal dei tali la percentuale di diplomati è questa e la percentuale di coloro che vanno all'università è quest'altra, e poi scelgo, cioè capisce, sarebbero state statistiche un po' diverse rispetto alla presentazione per ceto. No, Simone, devo salutarla perché devo andare al giornale radio. Grazie, con lei finiamo la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Tra poco, dopo il giornale radio, state con noi. Uno Nessuno 100 Milan. Paperback Writer. Rossella Brescia, sono quello che poc'anzi ha fatto il messaggio riguardo all'amore che Milan ha nei tuoi confronti. Spero che questo messaggio ti arrivi, perché Milan è palesemente cotto innamorato di te. Milan, quando nomini la Brescia si vede che hai già la linguetta da una parte che ti pendola. Tutti ascoltatori che la pensano come Manera, ma sono loro, secondo me, che pensano così. E tra l'altro, caro Leonardo, annunciazione, ci sei? Ci sono. Allora, ecco qua, Rossella Brescia ci ha mandato un messaggio audio. Ciao ragazzi, sono Rossella Brescia. Mamma mia, siete bravissimi. Ascolto sempre Uno Nessuno 100 Milan. Bravissimo Milan, comunque. Il sentimento è corrisposto. Ma smettila, è semplicemente una donna di spirito come sono io, e reggiamo questa tua assurda idea. E Ale, no, questo messaggio che ricalcava quello che hai fatto tu prima, sostanzialmente bravissimi, e poi rimarcare un bravissimo denota un interesse di altro tipo, non solo professionale. Bellissima. Va bene, dai, allora, esatto. Bellissima. Esatto. Dai, 19 minuti, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo qui. Adesso, caro Leonardo, ti voglio presentare un imprenditore con cui iniziamo questa seconda ora. Un imprenditore che, secondo me, ha il senso di capire che un'impresa, un'azienda, un po' è come una grande famiglia. Non lo so se la pensa così. Si tratta di Giorgio Bona. Buongiorno e benvenuto, Bona. Buongiorno. Eccoci qua. La vede un po' così, un'azienda, una famiglia? Una famiglia anche... Però la sentiamo un po' male. Aspetti, Bona, la devo interrompere perché il cellulare va e viene. Non so se è in una zona dove non si sente bene. Proviamo a richiamarla. Lei metta giù che proviamo a richiamarla, perché il cellulare. No, secondo me non si riesce, ecco, a riprendere la linea in modo decente. Sempre cioè, l'ottimismo. Chiudiamola qui, dai. L'abbiamo salutato. Chiudiamola qui e Bona. Yeah. Va bene, l'ha detta. Giorgio Bona, voglio ricordare, patron della Simmi, azienda che è nel Bergamasco. È specializzata nel confezionamento di abiti di grandi marchi e ha fatto questa iniziativa che ora ci spiega. Lo sentiamo meglio, Bona? Io credo proprio di sì. Bene. L'iniziativa è perché io ho voluto un gran bene a tutti i miei dipendenti dal 1970 arrivare ad oggi, e praticamente 5 anni fa ho detto: bisogna pensare che oggi ho 70 anni, cosa fare di questa azienda, che è un'azienda manufatturiera, sì, dove noi facciamo dei capi di altissima moda, lavoriamo al 95% per l'export, maggiormente per gli Stati Uniti d'America, e facciamo dei capi veramente delle, ecco, top, però, linee di tutti i marchi. Spieghiamola a beneficio degli ascoltatori: lei ha deciso di lasciare il 49% delle quote della sua azienda a, credo, 6 dipendenti, quelli che ritiene i più evidentemente interessati. Sono 6 dipendenti che praticamente circa proprio 5 anni fa, quando ho preso questa decisione, ho cominciato a monitorarli, ho visto che avevano le capacità, ho visto che potevano proseguire senza il mio aiuto, e ho cominciato a delegare, e io ho cominciato qualche passo indietro. Siamo arrivati ai bordi del 2020, che è il nostro 50°, e così abbiamo coronato presso un grande albergo di Milano, dove in gran segretezza in gran segretezza abbiamo comunicato tutta l'azienda i nomi di questi bravi ragazzi. Cioè, ma stupendo, ma è un regalo quello che lei ha fatto, cioè non è, è che... completamente un regalo. Un regalo, cioè non è che gliel'ha vendute, le ha cedute come regalo. Regalo. Assolutamente no, è un regalo. E qui devo dire anche una cosa, per carità, ma siamo stati anche, la legge è così, penalizzati un pochettino, perché io cedo gratuitamente, pagando completamente tutte le spese notarili, le tasse, questi beneficiari, e purtroppo le tasse sono le tasse, alte o molto alte. Ma io sono contento lo stesso, e questi ragazzi sono motivati, sono un bel gruppo, sono, ci sono le quote rosa all'interno di queste 6-4 signore, sono una grandissima esperienza. E poi ce n'è una, la più giovane, che ha circa 37-38 anni, che ho voluto cercare di coinvolgere anche lei, che nella parte amministrativa, però è una ragazza preparatissima, è una ragazza che peraltro ho voluto dare anche prima di questo atto notarile, quindi le ho dato la mansione di quadro, e questo se lo merita, perché sono tutti bravi, coesi, e vogliosi di intraprendere questa nuova iniziativa. No, ma voglio dire, caro Leonardo, vedi qua, insomma, che ne pensi tu di questa iniziativa di dire l'azienda deve proseguire, io ho 70 anni e penso che il futuro sia in alcuni dei dipendenti, no, scelti, ai quali regalo il 49%. È una specie di donazione. Ecco, si sente peggio Leonardo di Giorgio Bona. Sì, è vero. Aspetta, Leonardo, anche te ti dobbiamo recuperare. Tra l'altro, Bona, mi sembra di capire, ho sentito la sua pronuncia, non è proprio bergamasca, no? Anzi... No, non sono bergamasco, perché io arrivo da un bel paesello che si chiama Zumaglia, che è a 5 km da Biella, e io sono arrivato qua appunto prima del 1970, quando allora c'era la famosa Italia 90 e la famosa Italia Germania del famoso 4-3, e quindi sono arrivato qua con mio papà e abbiamo fondato questa azienda di abbigliamento, che ovviamente allora artigiani, e oggi siamo un'industria che siamo considerati veramente dai top, dai big della moda internazionale. Eccoci qua, Leonardo, ti abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato anche te. Dicevo che è come una specie di donazione, quindi su quella avrà dovuto necessariamente pagare le altre tasse. Cioè, quante sono le tasse? Ci faccia capire. La cosa più fastidiosa di tutta è le tasse. Lo Stato. Guardi, le tasse è un conteggio che ha fatto il notaio in collaborazione con la nostra commercialista. Una cifra che non vorrei dire, comunque è una cifra in base alla consistenza economica dell'azienda. Non ci dica la cifra, sennò poi dopo il valore. No, ci dica percentualmente quanto incide su. Incide circa un 2% circa. Però quello che voglio dire è questo: che questi 6 ragazzi cosa prendono? Prendono un immobile gratuitamente. Prendono un know-how durato tutti questi anni, perché c'è una capacità manuale nella nostra azienda ancora, ci sono delle vere sarte nei nostri reparti, c'è una visione, una puntualità nelle nostre consegne che va al di là della norma. Ah no, ma voglio dire, prendono in mano un'azienda avviata, loro conoscono assolutamente, e poi è un regalo stupendo, cioè nel senso... Proprio di sì, i ragazzi abbiamo fatto tutto questo in gran segreto, poi io circa 2 anni fa li ho convocati, se definitivamente erano contenti e se la sentivano, perché poi è un regalo, ma è un regalo anche di problemi che avranno. Certo, infatti guardi, Manuel da Valenza dice bello, bellissimo, non so se è un regalo col fisco in Italia. Non è proprio un regalo. Col fisco che c'è in Italia, vabbè, ma non gli avrà puntato una pistola per accettare, no Giorgio Bona? No, hanno accettato, sono tutti motivati. Peraltro adesso sta passando proprio qui davanti a me la più giovane, che sta sorridendo, che è quella che diciamo lavora costantemente vicino a me, e avrà il ruolo, si sente sicuramente imprenditrice. Va bene, sì. Giorgio Bona, noi la ringraziamo, ripeto, imprenditore patron della Simmi, ha fatto questo regalo a 6 dipendenti, ha donato il 49% dell'azienda. Si saranno creati dei dissapori con gli altri dipendenti, si sarà creato un clima un po' di tensione, delle difficoltà poi all'interno dell'azienda, perché gli altri ci sarà rimasti male. Sai come si chiama uno dei dipendenti? Meazza, Mauro Meazza. No, scherzo, ovviamente. Adesso questa azienda avrà delle difficoltà a proseguire, perché con tutte le tensioni che si sono create tra i dipendenti, quelli beneficiari del regalo e quelli no. Eccolo lì, sempre giusto. La vede dura. Con molto ottimismo, un po' come il ripristino della linea che abbiamo ripristinato invece con Giorgio Bona, invece la tua era quasi caduta. Va bene, signori, dai, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. State con noi. Esplora nuovi mondi e incontra lo straordinario, il sapore delle emozioni per immaginare l'inesplorato. Segui le tue passioni e vivi il futuro cominciando dalle tue vacanze. Con il Telomare Calloni basta sabbia nelle mutande. Elimina quella brutta sensazione di ospite indesiderato nei genitali. Telomare Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan e Manera, siete veramente uno spettacolo, complimenti. Beh, dal modo in cui ti ha detto ciao Rossella Brescia si capisce tutto. Confermalo, Manera. Vabbè, eccoci qua, caro Leonardo. C'è poco da confermare, è talmente palese per tutti che insomma è inutile proseguire su questo terreno sdrucciolevole. Com'è il terreno sdrucciolevole? Sdrucciolevole. Ti sei cambiato o sei ancora in vestaglia? No, giusto per farci i fatti tuoi. Sono ancora in vestaglia. Sì, sono ancora in pigiama. A che ora pensi di far parte del mondo moderno, della modernità, di prendere un ruolo nella tua società? Dopo, quando finisce la trasmissione, mi vesto, vado al bar G, mi prendo un caffè, poi devo andare a fare un paio di commissioni, poi scrivo. Never before 11, come dice il tuo amico, never before 11. E oggi arriva anche un Manera geloso con tante O finale, ma non deve essere geloso di nulla, perché non c'è nulla di cui essere gelosi, e quindi avanti così. Allora, volevi aggiungere ancora qualcosa? No, dico, l'unica gelosia deriva dal cognome, essendo io comunque della provincia di Brescia, e la signora Brescia, avrei preferito che avesse avuto un gradimento anche nei miei confronti, se non altro per affinità territoriale. Ma perché del cognome. Anche nei tuoi confronti? Cosa stai dicendo? La niente, finisci? Non continuiamo su questo terreno sdrucciolevole. No, infatti che poi stai a casa, che oggi il terreno è sdrucciolevole, esci e scivoli, ecco, fermiamoci qui. Allora, sapete che io da giorni elenco anche in maniera un po' teatrale tutti coloro che vengono pizzicati col reddito di cittadinanza, ma erano anche in altre faccende affaccendati, tipo, che ne so, a spacciare, a lavorare in nero, eccetera. Non è una cosa contro il reddito di cittadinanza. Ieri abbiamo parlato dei falsi invalidi di Palermo, quindi è un po' il malvezzo, il malcostume. Potremmo parlare oggi del giudice di Catanzaro, l'hai letto, che è stato arrestato perché in cambio di cibo, ci sono intercettazioni che dicono quello mangia come un porco, cibo, champagne, anche i mandarini si faceva regalare secondo le accuse, e sesso, vendeva, questa l'accusa, vendeva le sentenze. Allora, quindi il malcostume è diffuso. Ma tornando alla bomba sul reddito di cittadinanza, saluto Gianettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati e Matrimonialisti Italiani. Ben ritrovato, avvocato. Eccoci. Buongiorno a voi. Perché l'OCSE ha detto che aumentano i falsi divorzi per ottenere il reddito di cittadinanza. Cioè, già ce l'aveva spiegato Gassani che le percentuali erano aumentate di recente, di finti divorzi. Ma sì, questo è un fenomeno che è pregresso rispetto al varo del reddito di cittadinanza. Diciamo, negli ultimi 10 anni abbiamo dovuto con rammarico registrare una moltitudine di separazioni consensuali fasulle per ottenere sgravi fiscali. È un tipico atteggiamento all'italiana per eludere il fisco, quindi si sa che una separazione può portare vantaggi come innanzitutto la possibilità di porre fine all'accumulo dei redditi, e quindi nel modello ISE del coniuge più debole, se risulta un reddito inferiore ai 25.000 euro, i figli potranno avere dei forti sgravi per le tasse universitarie, per i ticket sanitari. La seconda casa, quella spesso del mare, diventa prima casa, e là si va a mettere il marito come residenza, e quindi a quel punto avrebbe gli sgravi fiscali anche perché la casa al mare diventa prima casa. Quindi una serie di situazioni francamente vergognose nel nostro paese. Ovviamente il reddito di cittadinanza è stata un'altra grande occasione per quelli che la pensano così. Sì. Per cui fatta la legge, trovato l'inganno. Sì, diciamo l'ennesima, come dire, è l'ennesima opportunità. Sì, è l'ennesima opportunità. La reddito di cittadinanza ha diviso gli italiani, però la gran parte degli italiani sia contro questo sistema, che poi tra l'altro è stato fallimentare in tante cose, ma non mi voglio incamminare in discorsi di carattere politico. Però, da avvocato, da tecnico della materia, capisco perfettamente che i vantaggi di una separazione simulata ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza sono talmente palesi che sicuramente tra qualche mese avremo delle stime su separazioni simulate molto più raccapriccianti di quelle precedenti. Perché lei ci aveva detto addirittura 1 su 3, se ricordo bene, di separazioni consensuali. Il 7% secondo le stime, non sono dati statistici, sono delle stime ovviamente, perché è difficilissimo poi avere un dato statistico preciso, però più o meno affrontando un po' tutte le esperienze dei vari avvocati matrimonialisti di tutta Italia, insomma, ci siamo parlati, ci siamo chiariti alcuni punti. Crediamo che il 7-8%, ma forse anche di più. Ma non è facile verificare, nel senso, non si può andare a vedere se effettivamente vivono ancora insieme, insomma, non dovrebbe essere complicato verificare se la separazione non è simulata. Non è complicato, ma l'avvocato e il magistrato, tutto sommato, oggi non sono tenuti a fare dei controlli nella camera da letto, perché dovremmo cambiare completamente il sistema. Nel nostro paese, per esempio, due persone che si sono separate un mese prima, anche se scoperte a stare sotto lo stesso tetto, potrebbero sempre dichiarare, se colti nel fatto, di aver fatto pace il giorno prima. Sì. In effetti la separazione sospende il matrimonio, ma non lo scioglie come il divorzio, per cui diventa facilissimo dimostrare che si tratta di un momento di riappacificazione. È vero, sì, che oppure volendo, dire se mi sono fermato qui stasera perché sa com'è, è un momento di nostalgia. Oppure bisognerebbe fare delle indagini talmente importanti e costose su migliaia e migliaia di coppie, dove ci dovrebbe essere telecamere, testimonianze. Non si tratta di una visita di mezz'ora, ma si tratta proprio di una della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Si potrebbe fare, ma francamente non credo ci siano né i mezzi né gli uomini per farlo. Qual è esattamente la truffa del separarsi in maniera finta per ottenere il reddito di cittadinanza? Cioè, come avviene? Qual è il beneficio? Per cui siamo sempre lì, viene meno il cumulo dei redditi, il coniuge più debole, quello che magari sulla carta non riceve un assegno, sta in grande difficoltà. Se ci sono i presupposti, formula la domanda del reddito di cittadinanza, e molte volte, se la sua propria domanda, sebbene falsa e falsata, risponde a questi requisiti, questo ottiene il reddito di cittadinanza. Sì, perché ricordiamo che è una domanda che valuta il nucleo familiare, laddove il nucleo familiare si è separato, non è più. Esatto. E quindi questo è un problema serio, perché è un problema trasversale che riguarda poi più o meno quasi tutte le regioni italiane. I furbetti non hanno né latitudine né longitudine, però questo ci fa capire che molte volte, quando si fanno le leggi, quando si vogliono fare grandi rivoluzioni anche un po' populiste, questo è il risultato. Per cui o noi abbiamo gli strumenti per fare i controlli, o altrimenti continuiamo a sperperare denaro pubblico e favorire i furbetti. E quindi anche in questo, insomma, la politica italiana ha dimostrato un po' un atteggiamento dilettantistico, che poi i controlli, ci ha spiegato bene lei, non sono per nulla facili, anche avendo gli strumenti e gli uomini. Fanno i commercianti, i piccoli imprenditori sono quelli che poi si uccidono quelli che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, quelli che non riescono ad ammettere di non pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e poi arriva uno che si prende centinaia di euro solamente perché è riuscito a... Quindi questo è il cortocircuito di questo paese ormai alla deriva, e tutto questo poi confluisce nelle aule di giustizia, nelle separazioni, nei divorzi. Gli avvocati hanno un po' il polso della situazione del nostro paese, è un paese veramente in grande crisi. Ecco, quando dice confrontandosi con gli avvocati, per concludere, cioè se un avvocato viene a sapere che la separazione è consensuale è finta, se c'è un avvocato comunque di mezzo, cosa è tenuto a fare? Cosa è tenuto a fare dal punto di vista deontologico? Niente, l'avvocato non può intervenire. Che può dire... Poi l'avvocato può avere un sospetto, ma non è che l'avvocato può fare il delatore. No, il delatore no, però non puoi neanche dire scusate alle persone davanti, non prendiamoci in giro, questa cosa è illegale, insomma. Nessun cliente infatti dovrebbe dire ad un avvocato o al magistrato guardate che stiamo facendo una separazione per finta. Poi c'è anche un altro discorso, oggi si può fare anche una separazione senza gli avvocati. Sì, questo è vero. E la gran parte delle separazioni simulate sono fatte bypassando anche gli avvocati, perché oggi con 16 euro vai al comune e ti separi, non c'è bisogno certamente. Eviti anche l'imbarazzo di dover andare a mentire. Sì, ma addirittura se prima dovevi pagare una parcella, oggi non paghi neanche quella. Quindi puoi truffare lo Stato senza neanche passare dal cioè neanche gli avvocati ci guadagnano, perché la stragrande maggioranza di queste separazioni simulate sono fatte praticamente direttamente al comune, cioè firmando, sottoscrivendo un prestampato. E chi sa di questa storia? Nessuno, se non un po' l'ufficiale dello Stato dell'anagrafe. Quindi questa gente, tra l'altro, quelli che fanno le separazioni simulate, come Bonnie e Clyde, sono coppie straunite, perché magari c'è il fenomeno dei separati in casa che si odiano a morte ma non si separano, e quelli che si amano alla follia e dichiarano di essere separati, è il tipico degli italiani. Per cui nella stragrande maggioranza dei casi, lo ripeto, né gli avvocati, né i magistrati, né la Guardia di Finanza sapranno mai di quello che è successo. Allora, noi nel ringraziare Gian Ettore Gassani, Presidente Avvocati, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, no, giusto Leonardo, qui per rispondere a un ascoltatore, dice oggi siete vergognosi, c'è la nebbia, è colpa del reddito di cittadinanza. Ma chi l'ha detto? Cioè, stiamo analizzando una cosa che tra l'altro è stata sottolineata dall'OCSE, cioè dall'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico, non è che ci siamo inventati noi, basta informarsi. L'OCSE ha detto attenzione a questo allarme, aumentano le separazioni consensuali finte per il reddito di cittadinanza. Ma che vuole da noi? Cioè, sembrano anche numeri abbastanza importanti, perché se prima era il 7% di separazioni fittizie, adesso si prevede che sia un aumento, insomma non sono pochi casi. Nessuno qui ha detto che il reddito di cittadinanza ha creato il fenomeno delle separazioni fittizie, cosa che c'è da anni e viene monitorato, controllato, e che l'avvocato ci ha già detto era il 7%. Se lo aumenta, a me dispiace. Se questo ascoltatore, per difendere una parte politica, dice va bene così, la vergogna è sua, non nostra, almeno. Cioè non nostra, non mia, magari di Manera sì. Per carità. La soluzione è impedire i matrimoni tout court in generale. Questa, come sai, è la tua è la tua forma di barricadero, nel senso da barricadero, da barricato più che da barricadero. I matrimoni finiscono in modo fittizio o in modo reale, e quindi tanto vale evitare i matrimoni per legge. Ma sì, certo. Perché rischiare di farsi male andando, che ne so, a Bolzano prendendo un aereo? Non prendiamo gli aerei, questa è la tua soluzione. Niente, e vivi così e sottraiamo, e poi ti ritrovi in vestaglia alle 10.31 a casa da solo, invece che venire in radio a lavorare e a magari bere un caffè con noi e farti due risate. Magari poi passa Rossella Brescia, intanto sì, saluto. Magari poi passa Rossella Brescia qui alle 11 a salutarci e tu non ci sei. Saluto Mauro Meazza. Eccolo qua, ti vede, fa un cenno di assenso Mauro Meazza, non so cosa voglia dire, ma scuote il capo su e giù. Cosa vuol Mi dire? Mi auguro che abbiano cambiato la campanella della borsa, adesso vediamo se oggi c'è questa novità. Vediamo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta... Il futuro è un groviglio di dubbi e incertezze, di opportunità e trasformazioni continue. È possibile affrontare il domani senza perdere la bussola? Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, in collaborazione con Eni, organizza E se domani? 5 scelte per recuperare il presente. Un ciclo di confronti pubblici a ingresso libero. 5 incontri in 5 grandi città italiane per discutere di altrettanti temi da mettere al centro del nostro presente. Il primo appuntamento è dedicato al tema famiglie e si terrà giovedì 16 alle 18.30 a Milano, presso la Fondazione Feltrinelli, in Viale Pasubio 5. Perché la fiducia parte dalla conoscenza. Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau! I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Radio 24 e Il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'approfondimento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live e dalle 18.30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa Modena, il 29 gennaio presso la concessionaria Renault Franciosi. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. 1, nessuno, 100 Milan. Milano e Manera siete letteralmente vergognosi. Aggredire il reddito di cittadinanza, che è la cosa, forse la legge più giusta fatta negli ultimi 20 anni per gli italiani, per gli illeciti. È vergognoso uno Stato che obbliga i propri cittadini a separarsi per non pagare il carico esosissimo di tasse. Questo è vergognoso. Capito, sei vergognoso, caro Leonardo. Io vorrei semplicemente dire niente, ti dobbiamo richiamare perché stai zoppicando anche adesso con la stupenda app di Radio 24. Metti giù e richiama, come gli ascoltatori, metti giù e richiama. Tra l'altro hai creato un danno. Perché vedi qua, l'ascoltatore ci scrive. L'abbiamo recuperato, Leonardo? Sì, sì, sì, qua. Ci sono. Creo ci sono. Il comitato in difesa della campanella della borsa. Nessuno tocchi la campanella. Ma posso dire alla signora di prima che invece parlare dei casi di truffa rispetto al reddito di cittadinanza non è affossarlo, ma invece cercare di difenderlo, sì. Cercare di difenderlo, sì, mettendo in evidenza le truffe, è proprio il contrario secondo me. Ma intanto Ale, dai, ti devono sempre tirare da una parte e dall'altra. Grazia da Torino, eccoci Grazia, buongiorno. Buongiorno, sì. Dunque io ho frequentato il liceo classico negli anni 50 e posso assicurare, poi ho insegnato, ma questo non c'entra, e posso assicurare che le scuole, intanto la bontà delle scuole già dipendeva dai quartieri in cui erano, per sì. Cui arriva, ecco, non solo. C'era anche un'altra discriminazione, la sezione A, la sezione B, la sezione C, certo. E la sezione D. Certo. Ecco, quindi questi che hanno fatto questi discorsi strani, un po' da sconvolti, sono purtroppo il frutto di questa Italia che l'Istat dice essere molto ignorante, e io direi anche fascistelli inconsapevoli. Lei tra l'altro classico anni 50, quanti anni ha, signora Grazia? 79, compiuti adesso. Ma senta che bella voce, le dice ci sono dei fascistelli inconsapevoli, perché inconsapevoli? Perché in realtà è latente il fascismo. Sì, perché loro, poi se si dice, mi sento persino alla Meloni dire fascisti, non esistono più. No, essere fascisti è un modo di essere. Ecco, non c'entra niente con Mussolini, poveretto, maestro ignorante, basta. Ecco. Vabbè, insomma, cara Grazia, grazie per questo. Hai capito, caro Leonardo, la nostra amica Grazia da Torino? Dice già negli anni 50, effettivamente molti ci hanno raccontato che c'era anche c'è il tema delle sezioni, no? Nella sezione, ovviamente dicendo che nelle sezioni con le lettere, insomma, D, E, F, le prime lettere dell'alfabeto erano migliori. Le sezioni migliori, e poi le ultime sezioni venivano relegati quelli meno. meno in io gamba. Ad esempio, tu le eri medie, nella V, allora, la sezione no. V. Allora, a Salò sì. c'erano quattro sezioni delle medie, A, sì. B, C, D. Io ero nella D. D, ecco. Cosa sì. significa io... questa Salò? Te lo sei mai chiesto? Te lo sei mai invece, chiesto? Al liceo invece ero nella sezione A. A. Vabbè, ma aveva, sezione... ma scusa, erano sezioni legate al discorso che ci faceva Grazia oppure erano, erano sezioni dove tutti, oppure no, la D era perché eri ignorantotto. No. La D, sì, effettivamente ai miei tempi si diceva che la sezione D non fosse forse la migliore delle sezioni delle medie. Va bene. Invece poi si diceva che la A al liceo fosse forse la migliore. La peggiore. Hanno invertito al liceo, hanno invertito così. È anche vero che poi nella mia sezione A del liceo c'erano figli provenienti da tante classi sociali diverse, quindi sì. da questo punto di vista non c'erano distinzioni. Va bene, sentiamo da Padova Francesco. Eccoci. Eccomi qua, sono collegato. Sì, prego. Sì, allora, buongiorno a tutti. Niente, io volevo solo fare una precisazione perché ho sentito l'avvocato di prima che parlava dei matrimoni. Sì. No? Allora, io facendo il commercialista nei miei anni, adesso mi sono ritirato, è un po' troppo un casino continuare a lavorare con quest'Italia qua, però nel corso degli anni io ho sempre consigliato ai clienti di sposarsi unicamente in chiesa, cioè faccio la precisazione, il prete nel momento in cui celebra il matrimonio poi alla fine diventa un ufficiale dello Stato e legge l'articolo 143 eccetera eccetera, però se uno vuole, chiaramente su richiesta, dice no, a me non mi interessa niente dello Stato, anche perché questo Stato, diciamocelo chiaramente, non fa niente per le famiglie e quindi io per lo Stato continuo a essere non essere sposato. Voglio fare la cerimonia, io ad esempio sono cristiano, praticante, e per me è importante il matrimonio in quanto una formula cristiana, non in quanto una formula... No, va bene, ma non capisco questo con le eventuali truffe o non truffe, che cosa c'entra? No, perché allora effettivamente l'avvocato parlava che adesso si fa questa separazione, no, consensuale, sì. Si va davanti all'ufficiale... all'ufficiale giudicato. Sì, ma lui ne parlava di quelli che lo fanno in maniera truffaldina, una finta separazione per ottenere benefici. Ho capito, però bisogna che ci rendiamo conto, noi italiani, bisogna che ci rendiamo conto che purtroppo è lo Stato che ci mette in queste condizioni. Cioè anche lei dice le tasse sono talmente alte che... Ma non solo le tasse, cioè la famiglia italiana, guarda, io da commercialista lo so, non so se lo sa. Allora, le detrazioni fiscali e le varie cose sono fatte per persone singole, perché oggi come oggi è molto più conveniente, io lo posso dimostrare in qualsiasi modo, essere singoli che non essere sposati. Quindi lei dice, se lo Stato italiano facesse delle detrazioni fiscali, una politica di welfare a sostegno delle famiglie, non ci sarebbe bisogno di fare delle finte separazioni perché ci sarebbero degli sgravi in quanto famiglia. Ma sì, è una posizione, Leonardo, che anche vari ascoltatori ci dicono, è così, cioè puntate a sottolineare come lo Stato non aiuti le famiglie, per cui uno a volte è costretto a fare così. Vabbè, non lo so, però ci dicono, attenzione Leonardo, c'è Adele dalla provincia di Varese, mi dicono essere una telefonata melassa, buongiorno, nel senso una telefonata di complimenti, è vero Adele? Certo, che bello. Buongiorno intanto, volevo soltanto, caspita proprio adesso. Accidenti, dopo anni che prende la linea. Vabbè. Senta, prego, vai Adele. Volevo soltanto congratularmi con voi, in particolare col signor Leonardo Manera. Grande. Perché guardi, io non lo so, ma le risate che mi faccio con lui. Sì. Non le faccio con nessuno. Ieri nella puntata. Lo vado a trovare a casa, che adesso è lì in vestaglia, vado a suonargli. Insomma, dopo poveretto, dovrebbe sorbirsi una vecchietta. Leonardo, di qualcosa. Sono d'accordo con la signora, sono d'accordo. Come sono d'accordo? Quant'è che ha riso tanto? Due giorni fa ci diceva. Due giorni fa, guardi, io avevo le lacrime agli occhi, io devo ringraziarlo perché, guardi, mi fa stare bene, che te devo dire? Sembra un po', è un po' un professor Janssen il nostro Manera. Fa stare bene. Non lo so, lo premierei con qualche... Guardi, qualche cosa, con qualche onorificenza. Qualche onorificenza. Signora, mandi qualcosa in radio. Basta un ambrogino d'oro o lei punta, che ne so, a uno... No, a qualcosa di... Di più, del Presidente della Repubblica. No, di cibo. No, non lo so, di bravo, cibo. Ah, vabbè, Adele, questo, guardi, io poi... pilluzzicherò da quello che manda Manera. Che cosa gradisce lui in particolare? No. Allora, io preferisco il salato ma senza formaggio. Va bene, no formaggio, cosa salata, no senza formaggio. Dolce. Io sono specializzata nei dolci. Aia, Adele. Vanno dolci. Bene anche i dolci, vabbè. Basta che non ci sia formaggio. No, no, nei dolci come fa a esserci formaggio? Ma lei cosa sta dicendo? Una cheesecake magari, insomma, su questo... Sì, senta, no, veramente, ma io faccio complimenti anche a lei, dottor Milan. Va bene, sì, ma io ma lasci stare, io sono qua di passaggio. Ma adesso poi concentriamoci non su Manera. Vero, perché ma io, no. Io rido per il signor per Manera. Dottor Manera, per me è un dottore. Dottore della risata. Oh, bello questo. Si fermi così che dobbiamo andare al traffico. Il dottore della risata, Leonardo, stupendo questo. Tu sei un dottore della vita e dottore della risata. Bello, stupendo. Ecco. Dai, traffico. Cogli il momento oltre i limiti del coraggio. Ribalta gli schemi e fai volare l'immaginazione. Contamina le energie e vivi il futuro cominciando dal palato. Con la pirofila Calloni fai colpo sui tuoi ospiti, ottenendo una lasagna perfetta e tanti altri piatti buoni. Pirofila Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Uè Milan, Vecchio il Manera ha sì detto di essere in vestaglia in casa, ma non ha mica detto di essere solo. Infatti, non approfondiamo. Allora, però, visto che l'ascoltatrice ha chiamato, ha detto in qualche modo mi fa stare bene, ha evocato il professor Janssen, che infatti sentivo prima, il professor Janssen è venuto a trovarci, eccoci qua, professore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio 24, e siamo nei primi giorni dell'anno nuovo, il 2020, perciò è l'occasione buona per dare qualche insegnamento ai figli. No? Tante persone hanno figli, bisogna capire come comportarsi con questi figli per farli stare bene. Io sono un padre di famiglia e so perfettamente che oggi essere un padre di famiglia è molto complicato. Quindi qual è la prima cosa da fare, dottor Milan? Qual è? Coi figli, qual è? Amarli, ascoltarli. No. Mettere delle regole. Anche. Allora, regole. Io ogni mattina a colazione a mio figlio dei 12 anni dico: a scuola studia il modo migliore per litigare solo con quelli più piccoli. Ma no, come studia e basta, non come studia il modo migliore. Ma... per litigare con quelli più piccoli di te, altrimenti se litighi con quelli più grandi poi te fai male, sabato non possiamo andare al centro commerciale. Invece se picchi, se dai le botte a qualcuno più piccolo e vinci, sabato te faccio un regalo, te prendo 5 giochi sparatutto per la PlayStation. Invece a mia figlia di 18 anni cosa dico? Non ti buttare via sessualmente, vai a letto solo con quelli più ricchi di te. Un imprenditore, un calciatore, meglio ancora se famosi. Famosi. In quei casi prendi le tue però precauzioni quando fai l'amore. Ricordati sempre di usare la? Telecamera. Come la telecamera? Ma perché la telecamera? Altrimenti quando lo racconti alle amiche non ci credono. Devi avere delle prove. E così puoi andare sui giornali dei gossip per raccontarlo con delle prove, così diventi famosa, perché il mondo va così, ai figli bisogna dire la verità, bisogna dire le cose come sono, è inutile raccontare che nella vita vince il più buono e il più preparato, nella vita vince il più buono ma solo se ha più soldi di quello cattivo, nella vita conta il potere, le posizioni che ha. Prendiamo anche il Natale che è appena passato, il presepe, sì, no? Sì. Il presepe è tutto pieno di pastori, pastorelle, ma noi non sappiamo neanche il nome di uno di quei pastori. Invece alla fine arrivano i Re Magi e solo perché sono i re magi, sono ricchi, potenti, sappiamo il loro nome, Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Perché? Perché sono ricchi e potenti. Dei pastori non conosciamo niente. E di tutti i pastori che sono arrivati prima non sappiamo neanche un soprannome, un nomignolo, il pastore in generale, con le oche, e invece Gaspare, Melchiorre, Baldassare, perché sono ricchi. Questa è la vita. Bisogna dire la verità ai figli, che devono imparare che la vita è un combattimento. Un combattimento, ho capito però. La settimana scorsa mio figlio ha preso una nota sul diario perché ha litigato con un altro bambino extracomunitario a scuola, si stavano picchiando. E io cosa ho fatto? Sono stato contento. Come contento? Perché ho avuto, certo, ho avuto la dimostrazione di aver speso bene i soldi che ho utilizzato per mandare mio figlio al corso di lotta greco-romana. E invece la professoressa gli ha messo una nota sul diario, non ha capito niente, non ha capito che l'unico modo per favorire l'integrazione fra italiani e extracomunitari è picchiarsi. Perché prima ci si picchia e poi si va al pronto soccorso insieme. Proprio e nasce l'amicizia. Il peggio del peggio. E in più la professoressa, quando ha visto il diario di mio figlio, gli ha fatto togliere la foto della Belen Rodriguez seminuda che gli avevo attaccato io. Così almeno si fa un'idea del tipo di donna che deve puntare. Altrimenti questo disgraziato me va a cercare una intellettuale. Perché voglio anche dire che se proprio una donna deve spendere i soldi, è meglio che li spenda per rifarsi il seno piuttosto che per farsi una cultura. La cultura resta nel cervello e non la vede nessuna, invece è il seno e la vedono tutti, il seno ragazzi, fa carriera. Ragazzi, ragazzi. Insomma, cari amici, per concludere, la cosa che bisogna insegnare ai figli, e ve lo dico da psicologo e formatore per farli stare bene in questi primi giorni dell'anno, è che l'apparenza è più importante della sostanza. L'apparenza. E che i buoni sentimenti, sì, è più importante l'apparenza della sostanza, e che i buoni sentimenti vanno bene un giorno all'anno, è il giorno di Natale. Va bene. Da Santo Stefano, ecco, bisogna ricominciare a vedere la vita come era prima. Negli altri giorni bisogna vedere le persone come nemici. Nemici, da superare. Nemici. Questi sono i consigli per far stare bene. Complimenti. Per stare bene. Per stare bene. Questo è il mio messaggio per il nuovo anno che voglio dare a tutti gli ascoltatori di Uno, Nessuno e Centomila. E il tuo vicino è un nemico. Ma come nemico? Perché nemico? È un mondo dei nemici. Nemici. Ma tanto guardi, lo dica De Manera De Filippi. Lo dica Manera, che è barricato, lui nemici non ne ha, sta solo. Altro che amici di Maria De Filippi, nemici. Nel mondo dei nemici. Va bene, professor Janssen, ci venga a trovare quando vuole. Noi ci ritroviamo domani alle 9. Nessuno, 100.000.